It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è ammorbata da pesanti miasmi, Cappa e Drago battono i denti per il freddo. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Sto battendo i denti, K. Anch'io. Che freddo, Drago. L'inverno è ancora lungo, K. Ma quale inverno? Quale lungo? Inverno. No, qui alla fabbrica di polli non ha mai fatto freddo. È sempre stata una temperatura quasi tropicale, si stava bene. Scalava la bossa, è vero. È vero, è così. Qui, secondo me, lo fanno per far schiudere le uova. Ma cosa? Come cosa? Di tenere la temperatura alta. Hai capito? Ma oggi invece... Credo che sia colpa del golpe del colonnello Unghiute. Il colonnello Unghiute, noto cannibale e gorilla in divisa, ha preso il potere rovesciando il governo con un colpo di stato. Ma chi è il colonnello Unghiute? Pluridecorato nelle varie mangialonghe cannibali dell'Africa centrale, è stato a lungo collaboratore dei servizi segreti americani e in seguito di quelli sovietici, per finire la sua carriera nelle fila del movimento nichilistico finto islamico Al-Qaeda. Attualmente siede contemporaneamente a Palazzo Chigi e al Quirinale. Due soli appunti, Drago. Dimmi. Come può il colonnello Unghiute sedere contemporaneamente a Palazzo Chigi e al Quirinale? Non lo so, è un gorilla evidentemente con il dono della parola e quello dell'ubiquità. Ma poi, quindi, scusa, sei sicuro che si può dire che c'è un gorilla al Quirinale? Non è questione di poterlo dire, è così, lo dicono le notizie. Non so, finché dici che è Palazzo Chigi, nessuno più si stupisce. Vabbè. Se ne sono dette tante. È vero. Però al Quirinale, non so, Drago. Insomma. Non lo so, al Quirinale. Comunque è colpa del colonnello Unghiute se adesso fa freddo. Sai com'è? Il gas russo, la crisi dell'Ucraina o dell'Ucraina, non si è mai capito. Non si è mai capito. Come Lucania e Basilicata, non si è mai capito. No, ma cosa c'entra adesso? O come Suomi e Finland. No, non ma si è mai Ucraina, capito. Ucraina era una questione di accento e basta. E come Ceylon e Sri Lanka. Di cinese solo birrerie, e Paolo Sarpi solo cineserie. Il libero mercato che si regola da solo tutte fesserie. Quando i soldi studieranno l'urbanistica e quando i soldi avranno cognizione architettonica, quel giorno il tuo quartiere sarà bello, ma per adesso vivi come un pollo. Pollo. È strano pensare che qui in mezzo ci ho amato una moglie. Eppure è stata dietro al bancone delle salamelle tra i bidoni di senape che abbiamo consumato il nostro matrimonio. Era una delle clausole non scritte della cerimonia. Ti sposo, sì, ma tu vieni con me al nord a farti le notti sotto un cavalcavia imburrando panini. Nel buono e nel cattivo incasso. Appena messi da parte i primi soldi avremmo dovuto aprire un bar, un posto vero, coi tavolini, la macchina del caffè, la vetrinetta delle brioche. Quei soldi poi sono pure arrivati, ma nel frattempo... è il resto che è venuto a mancare. Avevamo già preso troppo freddo in tutti quegli inverni qui sotto. E il ghiaccio ci è sceso dentro. Abbiamo smesso di parlarci, di toccarci, di essere insieme. E insieme ormai non si poteva più dare vita a qualcosa di nuovo e speciale. Però abbiamo continuato a cuocere e incassare. A incassare e cuocere. Finché non mi sono innamorato di Miruna, che veniva qui tutte le notti prima di iniziare a lavorare. Mia moglie se n'è andata, mia figlia l'ha seguita e adesso a spalmare la maionese c'è Miruna. Non ho più una famiglia. Ieri il giudice ha deciso che metà di quello che guadagno devo versarlo alla mia ex. Il mio avvocato dice che è una misura insensata, che mia figlia è maggiorenne e il chiosco è intestato a me. E che insomma tutti quei soldi ogni mese sono davvero troppi. Non ha capito il mio giovane avvocato che non si tratta di avidità, ma di romanticismo. Io e mia moglie continuiamo a spartirci l'incasso perché è l'unica cosa che abbiamo saputo fare insieme in 20 anni. Un matrimonio come il mio non si estingue con una separazione, ma alla Camera di Commercio, tra i libri contabili e istanze di fallimento. Oh, oh, oh, oh, la fabbrica di polli, polli, polli, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uè, Pollastri. Pollo in sbattimento. Puoi dirlo forte. Cosa? Che sono in sbattimento. Ma perché? Cosa c'è questa volta? Stavolta c'è lo stamping out. Lo? Lo stamping out. Cos'è? È un gruppo krautrock probabilmente. Ma che krautrock? No. Lo stamping out non c'entra niente col krautrock. Vabbè, ma allora cos'è? Lo stamping out è quello che fanno quegli uomini vestiti di bianco che sono qua in giro, li avete visti, no? Quelli brutti, tutti bardati. E questi vanno da un allevamento all'altro a far fuori polli. Eh sì, lo sappiamo, c'è un po' di panico in giro con voi polli, no, adesso? Don't panic. Eh sì, noi polli, noi polli, io e voi, noi. No, guarda, mi dispiace, io non ci casco, perché tu continui a dire che anche noi siamo polli, queste cose qui, ma la verità è che io sono un... sono un uomo, sì. E che uomo, eh? Questo uomo. Lo vediamo dopo, quando arrivano le truppe. Quali truppe? Quelle del colonnello Unghiute? Ma no, che Unghiute? Le truppe dello Stamping Out. Beh, guarda Polo, io sarò molto contento quando le truppe dello Stamping Out arriveranno qui nella fabbrica, perché finalmente uscirò di qui e tornerò alla mia vita normale. Drago, ma sai che mi sa che sei proprio un ciula? Ah, vabbè. Su questo sono d'accordo, vabbè. È un ciula. Sì, eh sì, un ciula. È un ciula. È un po' come Tarek. Adesso non offendere, perché insomma, come Tarek. Tarek, no. Ma è un bravo Polo, sì, Tarek. Sì. Ciao dai, Tarek. Spec, brie, pazienza, olive. Cioè, io sarei come quello lì. Siete due ciula. Ma no, ma come? Due polli ciula. Eh. E senza becco. Ah, perché tu il becco invece ce l'hai, il becco, lui eh? Sì, certo sì. Che ce l'ho. Ah, a me mica l'hanno piallato, eh? No, ancora, sì, però... E quando arrivano quelli lì dello stamping out... te lo piallano. Di destra o di sinistra che siano, io me li becco. Ma, scusa, ma cosa c'entra destra e sinistra? Sono gente che... del Ministero della Sanità. Ma cosa cioè, c'entra? Vabbè. Medici, cosa... Come che io non faccio mica distinzioni? Ma non c'entra niente. No, perché io quello lì me lo vedo già arrivare. Ma chi? Come te lo vedi arrivare? In tutta bianca. È un camicia verde sotto. Ma che camicia verde? Sì, quello lì viene lì e mi dice: uè, ciao, lo sai che io e te siamo tutte e due di Milano? E allora, uè, forza Milan, eh? Forza Milan. E poi mi dice: ma ti piace anche a te, Krautrock? Uè, e poi tutte sono così. Per ringraziarsi. Perché poi sono dei bastardi. Perché loro lo sanno qual è il tuo punto debole. E poi fanno finta di diventare tuoi amici. E poi? E poi ti fanno l'iniezione letale, no? Ma no! Come no? No, l'iniezione sì. Letale no! E allora ti tagliano la testa. Oppure gas. Chiudono 200 polli dentro una camera gas, tipo quelle là. Quali? Quali? Le camere gas, quelle più famose della storia. Camera gas, Quelle di quell'altro stamping out. No, aspetta. Quello in Germania. In Polonia. No, però Pollo, io voglio dire che sul nazismo puoi dire davvero tutto quello che vuoi, per carità, però non puoi dire che il nazismo sia stato crudele verso i polli, perché Himmler è noto che non pensava ad altro che agli uccelli. Oh, yeah. Allevava polli, allevava piccioni, tanti altri volatili, quindi non ha mai chiuso dei polli in una camera a gas. Io... Beh, raga, ma scusa, non ha chiuso i polli, ma ci ha chiuso le persone. Che magari è anche peggio, O no? Che cosa succederà adesso? Il pericolo dello stamping out temuto dal pollo in sbattimento è reale o immaginario? Per saperlo, non mancate domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo epidemico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. E poi canta. Farmen.